e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ed esco che già martedì, pure il mercoledì, giovedì, venerdì, poi c'è sabato, infine domenica, che è sempre più frenetica. Così non rimane che un giorno in cui sono di turno per chiedere il mio sacrosanto diritto di implodere e senza fare polemiche. Non si può rinunciare a una sera speciale che inizia così, ogni santo lunedì. Eccoci qua, buon lunedì anche a voi. Con Deborah ci passiamo il testimone, ma torniamo insieme domani. E quindi la settimana inizia con la donna di cuore. 800 24 00 24 se volete restare con me, scrivermi, mandarvi i vostri messaggi. Ma non mancano naturalmente i temi di denari. Nella prima parte, infatti, entreremo in condominio, un ambiente che molti di noi conoscono bene per esperienza diretta, però purtroppo non sempre per ragioni piacevoli. Parleremo infatti di liti contenziosi insieme ai nostri esperti, perché ci sono delle novità normative che sta discutendo il Parlamento e che riguardano il ruolo del giudice di pace. È una figura a cui sempre più spesso faremo affidamento in futuro per gestire le nostre liti condominiali. Ne parleremo con i nostri esperti. E per la parte di cuore, con l'aiuto invece del dottor Gianpietro Chiamenti, che è presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, commenteremo le ultime novità in materia di vaccini per capire soprattutto che cosa cambierà per i genitori. E poi parleremo di donne. In studio con noi avremo il piacere di avere il professor Paolo Veronesi, direttore della divisione di senologia chirurgica dell'OIEO, lo conoscete bene, che insieme a Eliana Liotta ha appena pubblicato per Rizzoli Il bene delle donne. Quindi amiche all'ascolto, mi raccomando, questa è la puntata per voi. Ovviamente non possiamo dimenticarci dei nostri ascoltatori, che invitiamo a intervenire in diretta per raccontarci come vivono i cambiamenti della loro compagna. Andiamo. È un piccolo universo questo nostro condominio, raccoglie uomini e diversità, ognuno ha la sua verità, chi c'ha ragione e chi non c'ha. Ci si saluta poco in questo nostro condominio. Come anticipato per il primo approfondimento di questa settimana, vi portiamo in condominio, un tema che interessa molti di noi e molto da vicino, anche perché ci occupiamo del lato, direi, meno piacevole della vita in condominio, ovvero delle liti, dei contenziosi, che, lo sappiamo, non mancano mai nei nostri palazzi. Spesso nelle assemblee non ci si riesce a mettere d'accordo, ci si scanna, si creano situazioni molto spiacevoli anche proprio tra i vicini di pianerottolo. Allora ne parliamo, come vi anticipavo, perché ci sono delle novità all'orizzonte, nuove norme all'esame del Parlamento che vedremo tra pochissimo con i nostri esperti. Oltre ad aggiornarvi sulle novità, però vogliamo, come sempre, avere anche i vostri racconti per un po' permettere di condividere le esperienze con chi ci ascolta e anche per chiedere ai nostri esperti di darvi una mano con i loro consigli. Allora vi ricordo subito quali sono i numeri per raggiungerci. 800 24 00 24, raccontateci qual è stata l'ultima lite, l'ultima controversia che avete vissuto in condominio. Avete subito dei danni, c'è un'infiltrazione oppure dei problemi per la nomina dell'amministratore, nella gestione magari delle parti comuni, dei rumori molesti? Magari siete proprio in questi giorni alle prese con un problema del genere, vi serve un consiglio? Allora chiamateci. C'è stato un contenzioso con l'amministratore, un'incomprensione alla in assemblea, una lite, cosa l'ha provocata? Raccontateci come è andata e soprattutto come l'avete gestita e a chi vi siete rivolti per dirimerla, perché è proprio su questo che si concentrano le novità legislative che nei prossimi anni renderanno sempre più centrale il ruolo del giudice di pace. Tra l'altro, se c'è un giudice di pace all'ascolto, noi lo invitiamo volentieri a intervenire in diretta. Qualcuno di voi invece l'ha incontrato già? Chiamateci e raccontatecelo. Intanto qui in studio, e per fortuna, è arrivato e sceso dai piani alti Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 Ore. Ciao Cristiano, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi ha fatto anche uno scherzetto perché ci siamo incontrati in corridoio a mezzo minuto della diretta e mi ha detto: io risalgo su, e mi è venuto un mezzo infarto. Ma sapevo che potevo contare su Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocond, l'Associazione Italiana Condomini. Giusto? Buongiorno. Buongiorno. Ecco, avrei contato su di lei se Cristiano mi dava buca. Allora, Cristiano, partiamo proprio dalle novità in arrivo. Il contenzioso condominiale destinato ad essere sempre più materia del giudice di pace e sempre meno competenza del tribunale. Ci spiega un pochino meglio quali sono le decisioni che sta prendendo il Parlamento, quali anche potrebbero essere i tempi nei quali questo cambiamento avverrà? Sì, assolutamente. È una riforma che è attualmente in fase di approvazione, non parliamo ancora di leggi definitivamente varate, è l'attuazione della delega per la riforma della magistratura onoraria, quindi appunto i giudici di pace. Che cosa si prevede? Si prevede in uno schema di decreto legislativo che il governo ha mandato al Parlamento di assegnare al giudice di pace un numero di cause in materia condominiale molto maggiore di quelle che già oggi fanno i giudici di pace, perché hanno già attualmente una competenza. E per ampliare questa competenza si agisce su due livelli, cioè da un lato si stabilisce che tutte le cause in materia condominiale andranno al giudice di pace. Sì. Quindi mentre oggi ci sono solo quelle che riguardano le modalità di uso dei servizi e delle parti comuni, in futuro tutte le cause, diciamo, che nascono come condominiali, andranno al giudice di pace. Il giudice di pace si prende noi e il nostro condominio. Esattamente. Dai. E poi, oltre a questa modifica, in parallelo viene alzata quella competenza per valore che oggi è di tutte le liti fino a 5.000 euro di valore e che diventerà 30.000 euro. Questa è una modifica che riguarda tutte le materie, non solo quella condominiale, ma che ha un riflesso anche sul condominio. Pensiamo a una causa che non è, diciamo, tecnicamente condominiale, come l'ipotesi di una persona che è esterna, diciamo estranea al condominio, che cade sulla rampa d'accesso dell'edificio e chiede i danni. Ecco, questa non è una causa condominiale in senso stretto, è una causa di risarcimento dei danni. Oggi si va al giudice di pace fino a un danno di 5.000 euro, domani si andrà al giudice di pace fino a un danno di 30.000. Adesso io vi ho detto oggi e domani, bisogna dire bene quando, però. Esatto. Allora, questo schema di decreto legislativo prevede che il passaggio avverrà per le cause introdotte a partire dal 30 di ottobre del 2021, quindi è immediato. Ecco, quindi per chi ha già dei procedimenti in corso e per chi li avrà nei prossimi mesi, anzi direi nei prossimi anni, ancora non cambia niente. Continua a valere la competenza attuale. Avvocato Cirla, che cosa dobbiamo aggiungere? Ma è una riforma che sicuramente lascia dei dubbi, però meno male che entra in vigore fra qualche anno, quindi anche i giudici di pace avranno modo di approfondire la materia del condominio, perché già dall'introduzione di Cristiano Dell'Oste vediamo che il condominio è tutt'altro che semplice, le tematiche che si affrontano in condominio sono davvero complicate, quindi speriamo che i giudici di pace riescano da qui al 2021 così apprendere l'importanza della materia condominiale, perché effettivamente avranno da lavorare. Quali sono, Cristiano, secondo te, i problemi che nascono e più di difficile soluzione in condominio, quelli che proprio mettono in difficoltà le varie figure? Stanno già arrivando i messaggi e le chiamate dei nostri ascoltatori, mi piacerebbe proprio approfittare della tua presenza qui e dell'avvocato Cirla per dare proprio delle indicazioni partendo da casi concreti. Certo, ma diciamo che da un punto di vista tecnico una grossa difficoltà che riguarda la materia condominiale è il fatto che è strettamente incrociata con quella dei diritti reali, cioè dei diritti di proprietà. Facciamo conto che ogni anno, se guardiamo le cause che vengono inviate alla mediazione obbligatoria, che è un passaggio preliminare all'avvio della controversia, ne vengono misurate dal Ministero della Giustizia circa 22.500 in materia di condominio e 26.500 in materia di diritti reali. I diritti reali sono tutte quelle situazioni in cui due vicini litigano per l'esistenza di un diritto di proprietà o di un altro diritto, e come dicevo spesso questo si incrocia con la materia condominiale ed è un problema. Se poi andiamo a vedere anche le materie che fanno più discutere, beh, c'è sicuramente tutta la tematica dell'uso delle parti comuni, dal parcheggio in cortile piuttosto che fino all'occupazione dei sottotetti di proprietà comune che magari vengono usati come magazzino da uno solo dei condomini e così via. Ci sono poi tutte le cause legate al denaro, quindi alle morosità, ai ritardi nei pagamenti. Queste sono aumentate in modo esponenziale negli anni della crisi, perché ovviamente le famiglie hanno meno capacità di spesa, e la riforma del condominio, che è entrata in vigore nel 2013, impone all'amministratore di agire per recuperare le somme dovute da chi non sta pagando in tempi molto più stretti rispetto a prima. Quindi non si può più assistere a quell'accumulo di arretrati. Allora, il nostro numero verde è a disposizione, ma è anche, sono pronte le informazioni sul traffico. Andiamo. Cuore e denari. Siamo noi, condomini del mondo. Condomini all'ascolto, 800 24 0024. Oggi la prima parte di Cuore Denari è dedicata a voi, insieme a Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 Ore, e all'avvocato Augusto Cirla, che è segretario nazionale Assocond. Allora, avvocato, vorrei che lei mi aiutasse a definire con precisione a che cosa ci riferiamo quando parliamo di contenzioso condominiale, perché non tutte le controversie in cui possiamo imbattere nei nostri palazzi possono essere definite così. Ci aiuta con una definizione, con magari qualche esempio concreto di quali sono, certo, i classici proprio casi di contenzioso condominiale? Guardi, così ci riconosciamo. Siamo a una definizione proprio così dettata dalla legge, interpretandola, perché non dare dei segnali precisi, in linea di massima sono quelli che riguardano condomini contro condomini o condomini contro il condominio, o viceversa, ovviamente. Le cause classiche condominiali, le impugnazioni delle delibere assembleari, anche qua differenziando oggi a secondo del valore della delibera che si impugna il giudice di pace, se siamo sotto i 5.000, oppure il tribunale. La violazione del regolamento, anche qua oggi assistiamo a contenziosi notevoli per la destinazione, ad esempio, della singola unità immobiliare. Il bed and breakfast sta coinvolgendo ormai il tribunale di Milano, l'uso legittimo, l'uso non legittimo della parte comune e rispetto alla parte privata. Il codice dice che bisogna sempre avvisare l'amministratore quando si interviene nel proprio appartamento, si va a coinvolgere le parti comuni. Anche questo è un contenzioso tipico condominiale che allo Stato va davanti al tribunale e poi in seguito invece finirà davanti al giudice di pace, che ormai è investito dal 2021 di tutte le cause che coinvolgono sostanzialmente il condominio. Ci sono le cause che magari coinvolgono un condominio ma non sono rientranti nella materia condominiale. Il condominio che litiga con l'appaltatore perché ha rifatto male la facciata, oppure deve pagare i compensi e quant'altro. Questa è una causa che ovviamente rientra come parte del condominio, ma non è considerata una causa condominiale. Insomma, ogni volta va valutato esattamente qual è l'oggetto del contendere. Così, ad esempio, i pagamenti delle spese condominiali, anche qua è semplice se in caso di morosità sotto i 5 o sopra i 5, ma ad esempio se impugniamo una delibera assembleare per una voce di addebito, se contestiamo il singolo addebito al condomino guardiamo il valore, ma se invece contestiamo la spesa generale, ipotesi, il riscaldamento, allora dobbiamo andare davanti al tribunale. Insomma, la linea di divisione tra la competenza dell'uno e dell'altro davvero certe volte è sottile. Cristiano, volevi intervenire prima di lasciare spazio ai nostri ascoltatori per puntualizzare alcuni dati, alcuni momenti ed evitare... Sì, diciamo. Quindi, che la spiegazione dell'avvocato Cirla, che ha lavorato con me, con Saverio Fossati, all'approfondimento che abbiamo fatto sul Sole 24 Ore di lunedì scorso, fa capire bene quanto sia ingarbugliata la materia, e spiega anche perché tra, per esempio, le associazioni della proprietà edilizia ci siano forti resistenze a questa riforma. Diciamo che qualche piccolo correttivo potrebbe esserci, perché l'iter qual è della riforma? Che adesso Camera e Senato e anche il CSM dovranno esprimere il proprio parere. La Camera lo farà entro il 10 giugno. Poi il Governo, il Consiglio dei Ministri, adotterà la versione definitiva di questo decreto e lo dovrà fare entro il 13 luglio, questo secondo i tempi previsti dalla legge delega. Qualche correttivo, dicevamo, ci potrebbe essere. È difficile immaginare probabilmente che siano dei correttivi così grandi da non assegnare al giudice di pace tutte le cose che stiamo dicendo adesso, perché questa riforma ha come obiettivo quella di togliere una parte di liti al tribunale e di darle appunto al giudice di pace nella speranza di accelerare e di migliorare il funzionamento della macchina della giustizia. Allora abbiamo in linea con noi Fabio dalla provincia di Torino. Buongiorno Fabio. Sta parlando con me? Ma se lei si chiama Fabio, ha chiamato l'800 Marco. Marco, chiedo scusa, Marco Abbio. Marco. Sono consulente tecnico del Tribunale di Torino. Allora quindi, sì, allora quindi, grazie. Quindi grazie a lei, sono sostanzialmente un operatore sostanzialmente del sistema e sono particolarmente critico a questa tipologia di riforma, ma perché per due motivi di fondo. Il primo fatto è che i giudici di pace non hanno la preparazione tecnica sostanzialmente analoga ai giudici ordinari ovviamente del tribunale, e le loro sentenze sono sentenze non in diritto, il più delle volte sono sentenze cosiddette equitative, in qualche modo costringerebbero gli operatori a fare un elevatissimo numero poi di appelli rispetto alle loro sentenze. Questo è il punto di vista di un addetto ai lavori, ci ha detto Marco, che noi abbiamo chiamato Fabio, che è consulente al tribunale. Avvocato Cirla, Cristiano, allora i giudici di pace non hanno l'esperienza, ma credo che abbiano il tempo di andare ad aggiornarsi e quindi essere all'altezza della situazione. Diciamo che questa non parte da domani. Diciamo che le perplessità che ha sollevato il nostro ascoltatore sono condivise tra gli addetti ai lavori, nel senso che ad oggi è chiaro che ai giudici di pace si chiede uno scatto importante di preparazione. Il decreto si occupa molto anche dei nuovi criteri di selezione, dei criteri retributivi. Le stesse associazioni che raccolgono oggi i giudici di pace dicono comunque che ci saranno delle difficoltà, perché comunque sia la figura del giudice di pace è la figura di un magistrato non di professione, quindi questo è un aspetto che non si può trascurare. Il rischio è, si è detto più volte, come diceva il nostro ascoltatore, un aumento degli appelli, ma anche un aumento delle obiezioni sulla competenza delle cause che faranno gli avvocati. Quindi, cari amici, avremo da lavorare, da discutere, altre puntate ci aspettano insieme all'avvocato Cirla, che ringrazio. Grazie, avvocato, per essere stato con noi. Grazie a voi. E a Cristiano. Cristiano, grazie, tu ritorni al sole, ma vedrai che Deborah ti ripinza tra poco. Grazie. Grazie, buona giornata, GR. Il segnale orario vi è offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... UPMC Chianciano Terme è cura e prevenzione. UPMCChianciano.it. Cuore e denari. Le donne sanno fare questa cosa speciale che è calarsi nell'altro. Avvertono la tristezza da una piega delle labbra, il sorriso dalla luce degli occhi. È un'inclinazione biologica. Nascono così, capaci di ascoltare i respiri segreti. così l'incipit del libro di cui parliamo oggi, che si intitola Il bene delle donne. Rizzoli, scritto a quattro mani da Eliana Liotta, giornalista e scrittrice. Bentornata e benvenuta Eliana. Grazie Nicoletta, buongiorno. Siamo in diretta Facebook e quindi potete vederla, ed è con noi anche il professor Paolo Veronesi, direttore della divisione di senologia chirurgica all'OIEO e presidente della Fondazione Umberto Veronesi. La presento subito, anche se volevo tirarla fuori un po' come il coniglio dal cappello, ma la vedete per chi sta seguendoci, anzi continuate a scriverci e fate domande anche su Facebook. La dottoressa Giovanna Luini, Giovanna, per noi, voi la conoscete, io e Deborah siamo legate a lei da una profonda amicizia, e ogni volta che parliamo di donne Giovanna è con noi, anche ci ha accompagnati in dei passaggi molto importanti che gli ascoltatori di Cuore Denari conoscono, per gestire anche le nostre emozioni. Allora, vi ho dato tutte le coordinate, 349-238-6666, Il bene delle donne, una puntata dedicata all'universo femminile, ma naturalmente non vogliamo escludere anche l'universo maschile, perché solitamente siamo noi donne ad occuparci della salute degli uomini, dei nostri compagni, ed Eliana vengo subito da te. Ma chissà mai, ci sono anche uomini attenti e che possono notare magari i cambiamenti nella loro compagna, nella loro figlia, nella loro collega, e quindi segnalarcele. Intanto, leggo come sottotitolo, così attivo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici: che cosa mangiare, quali controlli fare, come prendersi cura del corpo e della mente. Questo è il tema. Raccontateci anche la vostra ricetta, che cosa state facendo, che cosa avete fatto, che cosa penserete di fare per arrivare al vostro bene. Un bene inteso come salute nel senso pieno del termine, salute del corpo e della mente. Eliana, tu hai scritto: si legge come un romanzo e si consulta come un manuale. Sì, è la definizione che ne ha dato l'editore Rizzoli, ma era davvero quello che io mi proponevo, perché la manualistica, così come si è soliti vederla e acquistarla, risulta poi noiosa alla lettura. Mentre invece questo vuole essere un viaggio nell'universo femminile e quindi un racconto di quello che è la donna. Avete letto l'incipit, bellissimo tra l'altro, questa resa mi ha emozionato. Ma guarda, noi lo facciamo sempre, perché gli scrittori si emozionano sempre a sentire il loro libro letto da un altro, e quindi è un bellissimo regalo. Sì, è un po' un gioco del mestiere. Vi volevo un po' commuovere. Siete un po' commossi? È un po' sì. Allora, allora ci date qualche copia per i nostri ascoltatori? Ma certo, certo. Con immenso piacere. Vedi come sono un po'. Scusa, ti ho interrotto Eliana, quindi? No, e ti dicevo, quindi è bello poter leggere un libro come fosse un romanzo, un grande racconto, senza annoiarsi, anzi al contrario, arrivando dall'inizio alla fine con un qualche piacere anche dello spirito, ecco. Professor Veronesi, se lei dovesse dedicare questo libro ad una donna ideale, a un tipo di donna, a chi lo dedicherebbe? Per chi l'ha pensato mentre lo scriveva? Giovanna Luini dice a me, tutti vorrebbero avere una sua dedica, ma... Innanzitutto buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie Nicoletta per averci invitato. È un libro che in realtà non dedicherei a una donna in particolare, lo dedicherei veramente a tutte le donne e soprattutto, secondo me, a tutti gli uomini, perché è un libro fatto per le donne, che le donne dovrebbero leggere. Molte cose le sanno già, molte le immaginano, qui trovano forse la spiegazione di tante cose che gli succedono. E invece per gli uomini, secondo me, è ancora più importante. Tante volte un uomo fa fatica a capire l'imprevedibilità della donna, le donne ci sorprendono sempre, ma perché sono diverse da noi. Forse leggendo questo libro ci sorprendono un po' meno, cioè si capisce perché si comportano in un modo, perché fanno delle cose piuttosto che delle altre, perché hanno delle reazioni che noi non ci aspettiamo mai, e vanno sempre al contrario di quello che pensiamo. Bello, mi piace questo. E quindi lo consiglierei davvero a tutti gli uomini. Non a caso un capitolo è il cancan degli ormoni. Andiamo proprio lì, al cancan degli ormoni. E gli ormoni fanno su e giù, appunto come le gambe delle ballerine del cancan, per questo il capitolo si intitola così. O come i mercati. Ecco, per stare a cuore denari. La donna produce estrogeni, sono gli ormoni sessuali tipicamente femminili, ma non, diciamo, non li produce nella stessa maniera nel corso del mese o nel corso della vita. Questa altalena degli ormoni consente la meraviglia della vita, perché porta a maturazione l'ovulo, che poi aspetta una eventuale inseminazione. A un certo momento, invece, quando arriva la menopausa, non c'è più la produzione ovarica di estrogeni, ma gli estrogeni sono legati a un sacco di cose. Per esempio, pochi lo sanno, ma sono legati alla serotonina, la molecola detta del buon umore. E allora, quando gli ormoni vanno giù, anche la serotonina va giù. Ecco perché qualche giorno prima del ciclo mestruale a noi donne sembra che il cielo stia letteralmente cadendo addosso, e si spiega l'imprevedibilità di cui parlava Paolo, che ha una base fisiologica. Ecco, il professor Veronesi diceva: leggete, che così vi attrezzate, perché tra le righe ho letto anche quello. Esattamente. Giovanna, vengo da te. Nel libro di Eliane, del professor Veronesi, si dà naturalmente un po', si parla a 360 gradi della salute e del benessere della donna, corpo e psiche, ed è un tema che con te abbiamo trattato tante volte. Della, se vuoi, di questa dimensione della donna, che noi abbiamo proprio aperto con il libro sull'empatia della donna, e le donne sono empatiche e hanno bisogno di riconoscersi di conoscersi attraverso strade che poi nel libro vengono descritte e di cui parleremo. Sì, ma infatti leggendo il libro pensavo questo: ogni donna, beh, veramente anche ogni uomo, ogni persona è unica e ha un proprio percorso, un proprio equilibrio. I corpi non sono uguali, le menti sono tutte diverse e le energie sono diverse. La mia via è quella di suggerire di solito di prendere le informazioni migliori, perché ce ne sono anche di sbagliate in giro. Quindi, per esempio, il libro di Paolo e di Eliana fa parte della categoria informazione buona, e poi trovare la propria via. In realtà nessuno ha la ricetta del benessere vero. Ognuno di noi è unico, ognuno di noi ha una strada e nessuno ci ama più di noi stessi. Il libro è molto bello, quindi quando l'ho letto ho pensato a donne e uomini che leggono, riflettono e poi, attraverso i suggerimenti, però scovano la propria via personale, perché mente e corpo è questo, non sono separate. Il mio corpo dà segnali alla mente, la mente risponde. 800240024 è il nostro numero verde. Alle amiche e agli amici che ci seguono da casa chiedo di scriverci, di intervenire per condividere con noi anche la loro ricetta per il bene delle donne e degli Anna. Voi avete già dato delle indicazioni, dei passi, possiamo dire 10, 11, sì. O diventeranno magari in chiusura di trasmissione 22, chi lo sa. Ma sì, ma perché questi... io vorrei che, dato che il vostro libro è proprio basato su studi scientifici, io vorrei proprio invitare i nostri ascoltatori a chiederci: io sto facendo questo, che cosa dice la ricerca? Faccio bene? Ho cambiato dieta, ho aggiunto o tolto, faccio questi controlli. Arriveremo poi al tema della prevenzione dei controlli, su cui ci sono anche un po' delle idee un po' particolari, professor Veronesi, perché noi parliamo, quando noi donne facciamo dei controlli, investiamo il controllo di un potere magico che allontani le malattie. Il controllo non allontana le malattie, professore, ma ci permette di individuarle precocemente, questo già lo possiamo sottolineare. Assolutamente sì, io più che 10, 11, 15, 20, io parlerei proprio di ABC dello stare bene, ABC dove A è amore verso se stesse e verso gli altri, le donne ne sanno dare tanto, B racchiude forse buone abitudini, e lì ci mettiamo dentro tutta la prevenzione primaria, la dieta, l'attività fisica, cose che poi possiamo approfondire, mentre C sta proprio per controlli, quindi prevenzione secondaria, e anche qui appunto ne possiamo parlare a lungo, ma anche condivisione dei compiti e anche curiosità per mantenere la mente sempre attiva, allontanare quelle che sono le malattie neurodegenerative. Eliana, ABC, bello. Amore, buone abitudini e controlli. Sì, in realtà poi ce ne sono, c'è anche la E, per esempio, che è l'empatia di cui parlavamo all'inizio. L'empatia perché? Perché le donne sono così abili nell'empatia. E hanno proprio studiato il cervello. Siamo speciali adesso, mi spiace un po' dirlo. Ma guarda, hanno studiato con la così risonanza. Così si scatenano, perché poi mi dicono, sei femminista. No. Con la risonanza magnetica, il cervello degli uomini e delle donne. Quindi quali erano le reazioni in base a determinati stimoli, e si è visto che le connessioni tra i neuroni vanno nel cervello tipicamente maschile avanti e indietro in uno stesso emisfero, mentre nelle donne le connessioni neuronali vanno da un emisfero all'altro, quindi si collegano la sede del pensiero logico ma anche la sede dell'intuizione. Ecco perché le donne sono particolarmente abili a cogliere anche il linguaggio non verbale all'interno della conversazione. Parliamo naturalmente di cervello tipico maschile, tipico femminile, ma poi è chiaro che ci sono anche uomini invece molto, molto empatici. Questo, diciamo, è lo standard. Ma questa empatia che è tipica delle donne e che rende le donne maestre di cura, come sappiamo, cura degli anziani, cura dei bambini, dovrebbe essere sfruttata anche in ambito professionale, perché si è visto che i rapporti verticali, quindi dall'alto al basso all'interno delle aziende, non funzionano né, diciamo, per la serenità della vita dei singoli impiegati, lavoratori, né poi alla fine per la produttività delle aziende. Mentre invece adesso la cosa che funziona molto sono le cosiddette competenze trasversali, quindi persone che abbiano un talento specifico, certo, è ovvio, ma che siano anche capaci di fare il gioco di squadra, quindi che siano abili nella comunicazione, per esempio, con gli altri. Allora, il nostro numero verde è a vostra disposizione, tra poco sentiremo le vostre domande, ma voglio leggere alcuni messaggi che arrivano dalle nostre amiche al 349-238-6666, coinvolgo subito il professor Veronesi. È più utile la mammografia o l'autopalpazione? Ecco, questo è un messaggio su cui io ritorno, perché non è mai abbastanza il tempo che si dedica a far un po' capire esattamente che cosa significa controllarsi, quali sono i controlli da fare e soprattutto perché farli con una cadenza regolare. Professore. Certo, questo è un argomento sicuramente difficile, perché si fa un po', tendenzialmente si fa un po' di confusione. Esistono gli screening mammografici, che sono una cosa offerta dal nostro servizio sanitario e che prevedono una mammografia ogni 2 anni a partire dai 50 fino ai 69 anni. Sono utilissimi perché riducono la mortalità per tumore della mammella, ma non sono sufficienti per tutte le donne. Una donna pensa che con lo screening basta, è a posto. Il tumore non ne verrà mai. Invece non è così. Ci sono noduli che si scoprono nell'intervallo tra un esame e l'altro, e soprattutto c'è tutta una categoria più giovane di donne, già a partire dai 35 ai 50 anni, che è completamente fuori dai programmi di screening. Soprattutto queste donne devono fare prevenzione attivamente, devono farsi loro carico di fare prevenzione. L'autopalpazione va benissimo, ma naturalmente oggi non dobbiamo aspettare che un nodulo sia palpabile. Dobbiamo fare una diagnosi prima che la malattia si manifesti clinicamente. Questo oggi lo possiamo fare. Lo possiamo fare grazie all'ecografia con sonde ad alta frequenza, che ci consente di scoprire noduli piccolissimi anche nelle donne giovani. Parliamo di 30-35 anni. Chiaro che sono molto rare, per fortuna, però purtroppo capita, perché ci sono delle donne ad alto rischio, ci sono delle donne che hanno addirittura delle mutazioni genetiche che predispongono al tumore della mammella. In queste donne la malattia si manifesta in giovanissima età anche, e quindi devono stare particolarmente attente. Il problema è che spesso non lo sanno di avere questa mutazione, e quindi c'è tutto un problema proprio di prevenzione di popolazione, che nel futuro probabilmente riusciremo a capire chi è davvero predisposto a sviluppare questa malattia. La mammografia è importantissima, va però abbinata, come dicevamo, all'ecografia, soprattutto nelle donne giovani, e poi alcune volte completata anche con esami di secondo livello come la risonanza magnetica. Tutto dipende dal profilo di rischio della singola persona. Come dicevamo prima, ogni donna è diversa da un'altra, per abitudini, per genetica, per naturalmente tanti altri fattori che influenzano il rischio. Quindi è importante fare una prevenzione che sia il più possibile personalizzata. Quindi è difficile dare una regola di controlli che va bene per tutti. Sì, genericamente possiamo dire ecografia a partire dai 35 anni tutti gli anni, mammografia tutti gli anni a partire dai 40 anni, però vi sono poi situazioni particolari che dobbiamo sempre puntualizzare. E lì il legame, la relazione con il nostro medico curante può fare davvero la differenza, ma può fare anche la differenza, e voi lo raccontate molto bene nel vostro libro, ripeto il titolo, Il bene delle donne, perché i nostri ascoltatori ce lo stanno chiedendo, Rizzoli editore, anche lo stile di vita, e lo descrivete in una maniera molto nuova, con grande appeal, direi, Eliana. Grazie. Parlate di stile alimentare, parlate di movimento, mettete insieme anche però naturalmente, e so che questo è un tema caro a Giovanna, quanto in tutto questo abbia un peso importante anche l'equilibrio emotivo e psicologico. Vuoi darci qualche indicazione di una prevenzione piacevole che investa tutta la nostra giornata e la nostra vita, diventi uno stile di vita? Allora, una cosa che tutti dovremmo fare, ma questo sia le donne sia gli uomini, è il movimento, perché il movimento poi mette in circolo le endorfine, che sono anche quelle delle molecole del buon umore, quindi intanto è tutto sempre molto collegato, l'attività fisica, quello che siamo nel corpo e quello che siamo nella mente. Quindi il movimento fa senz'altro bene anche alla mente, bene anche all'umore, però fa bene a un sacco di cose. Non brucia semplicemente le calorie, come si tende a pensare, fa anche quello, ma serve proprio a rinforzare le difese dell'organismo ed è una prevenzione importantissima anche di alcuni tipi di tumori. Quindi il movimento, l'attività fisica, non si tratta di praticare il triathlon, intendiamoci, no, certo. Si tratta di fare delle belle passeggiate, per esempio, già quello aiuta moltissimo. E poi c'è un concetto che introduciamo ed è il femminismo scientifico. Alle donne non fa bene semplicemente tenersi a posto nel corpo. Le donne hanno bisogno di condividere con il loro compagno, con il loro marito, tutta una serie di incombenze domestiche, la cura dei figli. Si è proprio visto che quando c'è un'equa ripartizione dei carichi familiari, c'è un tasso di incidenza della depressione che è inferiore. In Italia, purtroppo, i dati Istat dicono che invece oltre il 70% dei carichi familiari spetta alla donna. E questo non fa bene alla salute nell'insieme del corpo e della mente. Giovanna. Beh sì, condivido la ripartizione dei carichi e dei ruoli, è anche bello. Prima parlavo con Alessandro Milan qui fuori e parlavamo di questo, di quanto donna e uomo oggi abbiano ruoli che non sono più quelli di prima, e meno male. Il cervello della donna e dell'uomo, i neuroni che si parlano. In realtà tutto questo non è altro che una nuova e più attuale visione di ciò che siamo. Io non so se sia femminismo o maschilismo, non amo il termine femminismo. Amo però dire che siamo al mondo, se abbiamo un compagno o una compagna, è bello vivere insieme quel che si può e avere anche qualche spazio separato. Allora, adesso noi dobbiamo fermarci, una piccola pausa, andiamo a sentire i mercati, poi entreremo nel tema vaccini, intanto raccogliamo le vostre idee, le vostre domande per i nostri esperti, anche le vostre ricette per stare bene, i dubbi, ne stanno arrivando tantissimi via WhatsApp, anche messaggi vocali, nella seconda parte della trasmissione quindi daremo spazio ed entreremo ancora di più nel merito del bene delle donne, che fa bene anche agli uomini, non solo la lettura, ma anche seguire i consigli che sono descritti e che, come piace dire a me, hanno tutti il placet della ricerca. Tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da UPMC Chianciano Terme, è cura e prevenzione. UPMCchianciano.it. Cuore e denari. Yeah. Donne allo specchio, o meglio donne alla radio. Oggi, care amiche, parliamo di noi, ma naturalmente invitiamo anche l'altra metà del cielo che ci dà una mano, microfoni aperti. In questa sorta di gineceo virtuale, no, perché abbiamo anche il professor Veronesi che ci aiuta a capire qualcosa di più di noi, delle donne del terzo millennio, ma anche per il nostro bene. In nostra compagnia oggi, che siamo in diretta Facebook, potete quindi controllare il nostro studio e che cosa capita, anche il libro bello messo lì in bella mostra, Il bene delle donne, e dove siete uguali proprio, sulle foto, sulla copertina del libro e di persona... identici, Giovanna. Ah, credevo uguali tra loro, ho avuto un attimo di smarrimento, sono bellissimi. È un complimento molto pazzesco, perché molto tu belli. Si diventa invece... anche belli a fare le prevenzioni, chissà. Ma non lo so, qui siamo stati truccati ampiamente. Comunque, Eliana Liotta, giornalista scrittrice, professor Veronesi, direttore della divisione di senologia chirurgica all'OIEO e presidente della Fondazione Umberto Veronesi, Maria Giovanna Luini, medico, comunicatore scientifico, scrittrice che voi conoscete molto bene e conosce molto bene il mondo delle donne, grazie alla sua professione e anche alla sua sensibilità che ritroviamo anche nei personaggi femminili dei suoi romanzi. Allora, noi, come promesso, facciamo una piccola parentesi, una sorta di GR Salute, andiamo a parlare di vaccini. Professor Veronesi, è un tema che le sta particolarmente caro e di cui parlate anche nel libro, ne parleremo tra poco, ma intanto andiamo. Sì, prima di continuare a parlare di salute al femminile, parliamo della salute dei nostri bambini, uomini, donne di domani. Avrete sentito che viene reintrodotta l'obbligatorietà delle vaccinazioni, che da 4 passano a 12 a partire dal prossimo settembre, per l'iscrizione ad asili nido, scuole materne, ovvero nella fascia d'età da 0 a 6 anni, ma l'obbligo riguarderà con modalità diverse anche elementari, scuole medie e i primi 2 anni delle superiori, sino cioè li accompagniamo fino a quando hanno 16 anni. In linea con noi il dottor Gianpietro Chiamenti, che è presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, la FIMP. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Allora, ora che il decreto sulle vaccinazioni alle scuole è stato approvato, iniziano, mi sembra, i problemi pratici. Sembra che ci sia poco tempo per mettere tutti in regola ed evitare quindi che il proprio figlio resti fuori dai cancelli della scuola, di pagare pesanti sanzioni fino al rischio della sospensione della potestà genitoriale. Dottor Chiamenti, voi siete pronti? Perché già adesso ci sono problemi di liste d'attesa sui vaccini e alcuni servizi hanno organici, diciamo, in difficoltà. Ce la faranno? Tra l'altro c'è anche l'estate di mezzo, le ho dipinto uno scenario terribile, ma so che dottore? In effetti il decreto ci mette davanti a una situazione contingente che dovrà essere affrontata con molta energia e ciascuno dovrà fare il proprio compito. I servizi vaccinari dovranno apprestarsi a dare risposte efficaci e rapide e i pediatri di famiglia, che sono il front office delle famiglie, dovrà essere in grado di dare le spiegazioni ai singoli su quello che manca e su quello che c'è da fare, e noi in questo siamo sicuramente pronti. Direi che ci sarà da lavorare, parecchio. Sarà da lavorare, però la partita in palio è molto è importante. Molto alta. Purtroppo questo decreto viene così all'improvviso, però era anche nell'aria, perché la tendenza di cali dei tassi di copertura era tale da porre l'Italia all'ultimo posto in Europa rispetto al rischio di malattie, e quindi in qualche modo il decreto, diciamo, che era aspettato. Allora, senta dottore, abbiamo pensato di fare un giro sui social per entrare proprio in medias res, come diceva la mia prof di latino, e quindi di raccontare quali sono i problemi con cui si confrontano i genitori sui social. Abbiamo raccolto alcune domande che giriamo a lei per avere una risposta e un'indicazione. Un po' tamburo battente, abbiamo letto: io non ho capito una cosa a livello pratico, siamo noi genitori a doverci muovere o verranno mandati avvisi o altro? Dubito che arriveranno degli avvisi, ciascun genitore deve sapere quali vaccini ha fatto il proprio figlio oppure no, e in base a quelli dovrà recarsi a chiedere un certificato alle uffici vaccinali. Ma per capire, altra domanda, io ho fatto tutti gli obbligatori e consigliati ai miei bambini, ma tipo la varicella, scrive, non era né obbligatoria né consigliata, ora devo fargliela fare? Siccome rientra all'interno dei 12 vaccini diventati obbligatori, sì, la risposta è che bisogna tagliela. E se una la malattia l'ha già fatta, come fa a dimostrarlo? Deve portare una... Deve farsi certificare dal proprio medico curante che ha passato la malattia, e certamente chi ha fatto la malattia non ha bisogno del vaccino. Non ho ben capito, la mia bambina ha 2 anni e 10 mesi, devo farle fare i vaccini mancanti o una legge valida solo per i nuovi nati? No, no, la legge vale per tutti. Ovviamente vale in 2 modi diversi, per l'iscrizione al nido e alla scuola materna bisogna avere il certificato per i 12 vaccini obbligatori, mentre invece per le altre scuole, quelle dell'obbligo, c'è uno stato di certificazione obbligatoria in base al quale poi si prenderanno determinati provvedimenti. Dottore, io la ringrazio, naturalmente su questo tema torneremo. Volevo segnalarvi che sul nostro sito potete trovare un approfondimento anche del professor Alberto Mantovani, immunologo, direttore scientifico di Humanitas, che ci ha detto che siamo sulla strada giusta per uscire dal cartellino giallo che era stato alzato nei nostri confronti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dottor Chiamenti, a presto e grazie. A risentirci, grazie a voi e saluti agli ascoltatori. Grazie. Professor Veronesi, vaccini anche nel bene delle donne, parlate della vaccinazione HPV con cui abbiamo fatto tante puntate insieme anche a Giovanna, quindi che cosa vuole dire alle mamme all'ascolto, alle donne all'ascolto? Ma certamente anche questo è un argomento interessantissimo. Per fortuna il tumore della cervice uterina, grazie al pap test, nella nostra cultura almeno si è molto ridotto, ma rappresenta sempre un pericolo ed è dovuto al virus HPV. Oggi c'è la possibilità di fare un vaccino per la maggior parte dei ceppi pericolosi di questo virus, e da poco è diventato gratuito, offerto dal Servizio Sanitario Nazionale, sia per le femmine sia per i maschi. Questa forse è la novità, in molti paesi ancora anche europei questo invece non esiste, quindi forse su questo direi l'Italia è avanti rispetto agli altri come legislazione, e quindi il consiglio è di farlo naturalmente prima che inizino i rapporti sessuali, quindi diciamo alle ragazzine e ai ragazzi 12-13 anni è l'età consigliata per fare questo vaccino, perché protegge dal virus, e senza il virus non si possono sviluppare non solo il tumore della cervice uterina ma anche altri tumori, per esempio a livello del cavo orale e di altre situazioni. Ma lo dico sempre quando se ne parla, la mia vita è stata salvata nel 2008 perché rischiavo di perderla a causa del papillomavirus, e quindi quando Mario Sideri mi salvò mi donò tutti questi anni fino a oggi. Se ci fosse stata la vaccinazione l'avrei fatta, quindi quando leggo alcune follie soprattutto nei social network mi limito a dire che a me piace la concretezza. Sono viva oggi perché qualcuno si è accorto di un papillomavirus che stava provocando tumore. Questo per me basta. Allora arrivano, grazie Giovanna, perché la tua testimonianza sicuramente manda dei segnali, sveglia qualche campanellino che noi solitamente cerchiamo magari per paura, per poche informazioni, ignoranza, perché non è facile per una persona che non è un'addetta ai lavori farsi un'idea, e spesso ci lasciamo un po' portare dalla pancia piuttosto che dal cervello. I testi di immunologia sono molto complicati, così come gli studi. Voi siete medici e avete la possibilità di andare a vedere su PubMed tutte le... però per noi rimane un po' la fiducia. Per molti avere fiducia nel medico e nella scienza vuol dire spegnere invece il cervello. Secondo me non è questo, ma insomma di questo continuiamo a parlare ogni giorno, a confrontarci, perché sono arrivati davvero tantissime sms di ascoltatori che ci dicono che sono contrari, che questo decreto legge viola la libertà delle persone. Noi torneremo su questo aspetto, anche se è difficile capire come tornare, se è il contraddittorio, se perché la scienza, la ricerca paga, ma insomma cercheremo di dare voce, cercheremo modalità per fare un'informazione. Eliana, eravamo arrivati al più bello, arriviamo alla prevenzione. Tu sei autrice di un libro che ha avuto grandissimo successo, la dieta Smart Food, e ritorna anche nel bene delle donne, perché ci sono degli alimenti particolarmente amici della salute delle donne, il che non significa che non facciano bene anche agli uomini. Che cosa ci suggerisci? Sì, per esempio in questo libro c'è una tabella con le porzioni consigliate per le donne delle varie categorie di alimenti, ma è riportata anche una formula intuitiva per poter ripartire il pranzo e la cena in modo da farsi del bene, in modo semplice. E allora immaginiamo che pranzo e cena siano un grande piatto, così ha suggerito l'Harvard Medical School di Boston a proposito di scientificità dei temi. Nella parte sinistra immaginiamo che la metà sia composta da verdura e frutta, più verdura che frutta. A destra abbiamo un quarto invece di cereali, almeno una volta al giorno, almeno una bisognerebbe che fossero integrali, e poi un quarto di proteine, tutte le fonti proteiche sono ammesse. Quindi la cosa importante da memorizzare è che bisogna mangiare tantissima verdura. Per esempio, perché la verdura, oltre a tutte le vitamine di cui si parla costantemente, ha il calcio. Il calcio è importantissimo per le ossa della donna, che va incontro più dell'uomo al rischio osteoporosi oltre una certa età. Il calcio, siamo soliti immaginare che si possa pescare soltanto dal latte, dai formaggi. Non è così, ci sono tante altre fonti di calcio, come l'acqua, che copre fino a un terzo del fabbisogno giornaliero di calcio. Avrei voluto fare il domandone proprio su questo aspetto, ma mi hai un po' anticipato, perché prima di andare alle informazioni sul traffico volevo lanciare una domanda per i nostri ascoltatori, perché le prime due domande corrette il professor Veronesi ed Eliana Liotta faranno ricevere a casa il loro libro. Vi viene in mente un domandone? Il latte, a proposito, ne stavo parlando, va evitato quando per prevenire il tumore al seno, o se si è avuto il tumore al seno? 800 24 00 24, la risposta, vedi Carmelo, la sappiamo. No, la sappiamo perché abbiamo il professor Veronesi. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi torniamo. Cuore e denari. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. Il bene delle donne. Ma voi vi volete bene? E che cosa fate per volervi bene? Qual è la cosa, la coccola, l'attenzione, la premura che vi regalate o che regalate ad una donna che vi sta particolarmente a cuore? Potrebbe essere la vostra bambina, una vostra collega, la vostra mamma. 800 24 00 24, un numero a cui potete partecipare e intervenire anche per prenotare il vostro intervento per un domandone che ci ha proposto Eliana Liotta e che ai due ascoltatori che per primi interverranno in diretta permetterà di ricevere a casa il bene delle donne. Eliana, il domandone è la formula con precisione rigorosa la domanda, e poi il professor Veronesi risponderà alle nostre domande, ai nostri ascoltatori. Bisogna evitare latte e latticini per prevenire il tumore al seno? Sì o no? 800 24 00 24. Professore, io vorrei tornare ad un'ascoltatrice che con la sua domanda riassume molte delle domande che sono arrivate al nostro numero verde. Dopo i 69 anni le donne non devono più controllarsi? Conosco donne colpite da tumore ben oltre tale età. Che fare? Allora, noi diciamo sempre la prevenzione è giovane, bisogna iniziare da piccoli e però non finisce mai. Assolutamente, infatti lo screening mammografico, come abbiamo detto prima, finisce a 69 anni, ma purtroppo il rischio di sviluppare un tumore della mammella continua ad aumentare proporzionalmente all'età. Se tutte le donne vivessero 120 anni probabilmente si ammalerebbero tutte, quindi il rischio è direttamente proporzionale all'età, quindi anche dopo i 70 anni bisogna continuare a fare controlli. La cosa buona è che i controlli sono più semplici, è sufficiente fare la mammografia solitamente perché il seno cambia completamente composizione dopo la menopausa, si riassorbe la parte ghiandolare, rimane tessuto sostanzialmente adiposo, quindi è molto trasparente ai raggi. Con la mammografia si fa una buonissima prevenzione, semplicemente una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, quello che si riesce, e già con questo è sufficiente, ma non bisogna ovviamente mai smettere, soprattutto se una donna arriva a un'età anche avanzata in condizioni fisiche eccellenti, cosa che oggi è sempre più frequente o soprattutto se fa ad esempio una terapia ormonale sostitutiva, ad esempio per lungo tempo. Ci sono delle donne che vanno avanti tanti anni con le terapie ormonali e si mantengono sicuramente più giovani, vanno incontro a un piccolo aumento di rischio di tumore della mammella e quindi giustamente devono fare i controlli con regolarità. Giovanna, il professor Veronesi, quando io gli ho chiesto a chi dedicherebbe questo libro, ha detto non a, a una sola donna, a tutte le donne, ma in particolare anche agli uomini, perché attraverso questo libro, che si legge come un romanzo ma che si consulta come un manuale, Eliana ha detto bene, riescono a entrare in questa, nell'universo, no, della donna, che è così piacevolmente diverso, ma è meno, per fortuna. Allora abbiamo parlato di empatia, ci scrive un ascoltatore: mia moglie ha 49 anni, fuma 20 sigarette, sta prendendo anche le pastiglie per l'ansia, come posso aiutarla? Noi abbiamo abitudini diverse, io faccio sport e lei no, io non fumo, io propongo alimenti sani e naturali e lei no, ho un problema. Allora, in questo caso noi parliamo di prevenzione, ma a volte vorremmo che il nostro compagno la seguisse, ma ci sfugge dalle mani. Qual è il ruolo di un medico? Il ruolo di un medico, secondo me, è accompagnare l'armonia di queste due persone che nel quotidiano comunicano. È chiaro che il medico fornisce gli strumenti, cioè a una donna che fuma 20 sigarette al giorno io comunico che esistono i centri antifumo, esistono i presidi antifumo, ma soprattutto le spiego che il DNA della donna è più fragile rispetto al fumo, se lo paragoniamo al DNA dell'uomo. Detto questo, però, se la donna sta fumando, evidentemente ha qualcosa anche nelle sue emozioni, no? E le sue emozioni in qualche modo la spingono a fumare, quindi non posso limitarmi a dire questo è l'indirizzo del centro antifumo. Provo a trovare un modo per aumentare l'amore di sé di questa donna, e quel modo può anche essere passare attraverso il partner. Però vedo Paolo che vuole dire qualcosa. Forse per questo signore magari coinvolgere la moglie anche ad esempio nell'attività sportiva, perché certamente se l'uomo va a giocare a pallone con gli amici è chiaro che la donna si sente esclusa, ci sono tanti sport che si possono fare insieme, ecco che se si riesce a condividere lo sport automaticamente anche il fumo diventa poi un fattore limitante all'attività sportiva, e quindi probabilmente piano piano ridurrà questo vizio. Anche qui condivisione e partecipazione. Allora, hanno partecipato numerose le nostre amiche da casa all'800 24 00 24, un domandone, e io ringrazio Eliana che ci permette di così saperne di più. Iniziamo con Michela da Udine, subito dopo con Graziella, poi dalla risposta del professor Veronesi vediamo. Michela, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Michela, benvenuta e grazie. Ci dica. Allora, no, bisogna evitare il latte. Ok, questa è la posizione di Michela. Andiamo a Graziella. Eccomi, buongiorno. Buongiorno, Michela dice che il latte va evitato. E lei? Secondo me no, non va evitato il latte. È un alimento sano, prezioso, fin dalla più tenera infanzia, fin da quando... Allora, grazie Graziella. Scappo perché abbiamo meno di un minuto, ma il professor Veronesi può dare una risposta. Darei ragione a Graziella perché il latte non va così demonizzato, naturalmente va moderato in età adulta come tutte le cose, la moderazione è sempre il segreto, è chiaro che i bambini vivono solo di latte, negli adulti non è così, però contiene assolutamente tantissimi fattori nutritivi, non va demonizzato, non ci sono assolutamente evidenze scientifiche che facciano vedere che il latte sia così pericoloso per il tumore della mammella, quindi limitare naturalmente l'assunzione a 1-2 porzioni al giorno, latte e latticini. Quindi poco di tutto, troppo di nulla in sostanza, ma noi a tutte e due le nostre ascoltatrici faremo arrivare il libro con dedica, perché c'è sempre da imparare, e noi ringraziamo, noi parlo sempre, sembra che usi il plurale maiestatis, perché c'è sempre Debora, e allora va bene, Debora torna domani. Professor Veronesi, Eliana Liotta, Giovanna, grazie per essere state con noi, buona giornata, il bene delle donne Rizzoli, voilà, grazie. Grazie Nicoletta. Ciao.